Salvadanaio. minuti, buongiorno gentili ascoltatori, eccoci dunque all'appuntamento, buongiorno da Alessio Maurizi, oggi al posto di Deborah Rusciani che ha un piccolo problema di influenza ma sarà qui con noi naturalmente nei prossimi giorni. Eccoci qua con l'appuntamento di Salvadanaio, vogliamo affrontare oggi gli scenari che si aprono sul fronte di un ventilato possibile annunciato rialzo del costo del denaro, un aumento fra lo 0,25 e lo 0,5% dei tassi di interesse in Europa. Che cosa accadrà quando, qualora ad aprile questo aumento avverrà, e allora scelte grandi e piccole dei risparmiatori, dei consumatori, delle famiglie, anche delle imprese, e di questo parleremo. Vogliamo sentire anche i vostri spunti, naturalmente come sempre le vostre storie, le vostre domande all'800 24 00 24 o anche al 349 238 6666. Ne parleremo in studio con Gaetano Maria Alaimo, amministratore delegato di Pragme Financial Advisory Group, buongiorno, che è qua con noi. Buongiorno dottor Maurizi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E soprattutto nell'aspetto dei mutui, tasso dolente, tema dolente con i tassi che aumentano naturalmente, mutui e credito al consumo. E poi ne parleremo anche con Pietro Danzi, direttore generale Barclays Retail Italia, buongiorno. Buongiorno. Con quale parleremo soprattutto di un aspetto che invece può essere una luce in questa situazione, quello dei conti di deposito bancari, che insomma è prevedibile che ci siano degli aumenti. E poi ne parleremo anche con Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati, col quale faremo un punto sui mercati azionari e obbligazionari. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Prima però un breve sguardo alla borsa. Oggi ancora il prezzo del petrolio tiene sotto pressione i listini, Tokyo ha chiuso negativa di quasi il 2%, il petrolio è a $105, quasi 106 al barile sui mercati asiatici in apertura questa mattina, poi i listini a dir la verità hanno preso un indirizzo piuttosto positivo per quanto riguarda Milano, col FTSE MIB che adesso è in guadagno dello 0,7%, più incerte le piazze europee, Francoforte meno 0,13%, Parigi meno 0,4%. E Londra adesso è in progresso dello 0,35%. A Piazza Affari oggi c'è il caso Bulgari, l'annuncio è arrivato domenica sera del passaggio della casa del lusso romana sotto il controllo della LVMH, il grandissimo gruppo francese che fa capo a Bernard Arnault. È un'operazione complicata, non entriamo nei termini, ma insomma registriamo che il titolo adesso a Piazza Affari segna un progresso di quasi il 58%, con il valore dell'azione, se riusciamo anche a vederlo, adesso è sceso di qualcosa sotto i 12 euro ad azione, ma insomma si sta allineando col valore di 12,25, che è poi il valore che dovrebbe scattare al momento del passaggio. Tra i titoli positivi, TOTS più 5,7%, Fondiaria Sai più 5,7%, anche in questo caso Finmeccanica più 2,5%, Steam Micro Electronics guadagna il 2,4%, Lottomatica più 2%, insomma oggi sono tutti segni verdi a Piazza Affari. Per fortuna in controtendenza sul listino troviamo Telecom Italia meno 0,36%, Unicredit meno 0,3% e via andare altri titoli. Tra l'altro c'è anche Fiat Industrial che cede lo 0,2%, oggi una lunga intervista di John Elkann al Financial Times sui temi strategici. Per quanto riguarda Fiat Industrial invece c'è un possibile bond che arriverà prossimamente, ma insomma in questo momento il titolo è piuttosto penalizzato. 824 0024, dicevamo il tema della giornata. Dopo circa due anni di tassi di interesse molto bassi, i recenti dati sull'inflazione confermerebbero la tendenza di una nuova fase di risalita. Attualmente il saggio fissato dalla Banca Centrale Europea è all'1%, ma se, come anche la cronaca in queste ore ci conferma, i conflitti in Nord Africa e Mediterraneo dovessero spingere ancora di più i prezzi dei carburanti, allora potrebbe davvero diventare inevitabile un rialzo dei tassi di interesse, con ripercussioni per esempio per chi ha stipulato un mutuo. Di questo appunto parliamo quest'oggi. Allora iniziamo sentendo le parole che hanno scatenato questa situazione, quelle del presidente della BCE Jean-Claude Trichet giovedì scorso. The governing council decided to leave the key ECB interest rates unchanged Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati. Considerando le informazioni disponibili dall'ultimo incontro del 3 febbraio, osserviamo segnali di un aumento delle pressioni inflazionistiche dovuto principalmente a prezzi delle materie prime più elevati. I dati recenti confermano che i rischi sul fronte dei prezzi sono in salita. Sta continuando il momento positivo dell'attività economica nell'area euro, anche se permane elevato il livello di incertezza. È necessario che sia mantenuta la guardia alta per contenere i rischi alla stabilità dei prezzi. E per evitare che questi rischi si materializzino, il Consiglio direttivo è pronto a intervenire in modo deciso e tempestivo. Voglio sottolineare che la decisione di oggi sui tassi è stata unanime. Siamo estremamente vigili e al prossimo Consiglio di aprile un aumento dei tassi di interesse è possibile. We are in a posture of strong vigilance. An increase of interest rates in the next meeting is possible. Jacopo Cecchiatelli, amministratore delegato JC Associati, oggi la usiamo un po' come osservatore a tutto campo. La prima cosa che vorrei chiederle è: si parla di un aumento possibile tra lo 0,25 e lo 0,5% dei tassi. Lei che scenario vede da questo punto di vista? Ma da questo punto di vista direi che a questo punto è abbastanza fuori discussione che ci sarà un aumento alla prossima riunione di aprile, il 7 aprile se non erro. Penso che sarà dello 0,25 e penso che probabilmente non sarà un unico rialzo, potrebbe esserci un altro rialzo presumibilmente tra giugno e luglio, probabilmente più a luglio. Quello che noi ci aspettiamo a questo punto è un rialzo dello 0,50% diviso in due fasi, poi si vedrà, insomma, è chiaro che è difficile fare previsioni, anche se dopo diciamo, il secondo rialzo ci aspetteremo una fase di stallo, comunque di non azione, anche per vedere un po' come reagisce il mercato. Perché qualcuno parla di due possibili scenari: uno in cui un rialzo dello 0,25 verrà confermato con un altro rialzo perché l'economia vorrà dire che sarà ripartita davvero in Europa, altri che dicono attenzione perché ci sono ancora alcuni paesi che traballano, la Grecia, il Portogallo, l'Europa ha una crescita ancora non del tutto acquisita e quindi potrebbe esserci un rialzo e poi anche un ripensamento della BCE. Benissimo per quanto riguarda lo scenario generale. Adesso invece Gaetano Maria Alaimo, vorrei proprio... Esatto, Alaimo, mi scusi, la pronuncia esatta? Alaimo, esatto. Entriamo nel merito, perché ci sono già le stime dei consumatori su quello che potrebbe avvenire per i mutui, ahimè, insomma, nostri, dei consumatori, delle famiglie. Stime che, insomma, poi lasciano il tempo che trovano, però invece dei conti si possono fare. Che cosa è prevedibile per quanto riguarda i mutui? Bene, vado un po' anche in maniera pratica sul radioascoltatore per far capire bene quello che potrebbe essere l'aumento. Ipotizziamo un mutuo di 150.000 euro a tasso variabile, potrebbe tranquillamente aumentare la rata di circa 17 euro rispetto al tasso variabile attuale, con uno spread medio intorno al punto e 50. Questo potrebbe essere nel primo aumento dello 0,25 previsto dopo aprile. Con un secondo aumento entro la fine dell'anno, l'aumento potrebbe essere complessivo per l'anno di intorno ai 38 euro. Quindi il nostro consumatore avrebbe un in più sul montante complessivo circa 204 euro all'anno. Quindi ripetiamo, per un mutuo di 150.000 euro a un tasso variabile con un aumento dello 0,25. Questo è l'aumento previsto medio su una share di consumatori che hanno un'abitazione intorno a un valore intorno ai 250.000 euro di valore complessivo. Quindi, come vediamo, insomma, sono scenari e sono cifre che cominciano ad avere una loro importanza, anche se l'aumento, perché uno dice un aumento basso, però di un quarto di punto, però già si comincia a sentire nell'arco di un anno, si parla di centinaia di euro. Esattamente. Fermo restando che ancora nell'attuale scenario commerciale, il nostro consumatore ancora sceglie il tasso variabile rispetto al tasso fisso. Dobbiamo fare anche un'altra considerazione, che rispetto al 2008-2007, anni in cui si era venduto negli anni precedenti degli spread superiori agli attuali, con il decreto Bersani e il decreto Tremonti sicuramente il consumatore è molto più salvaguardato, sia nell'atto in cui dovrebbe fare una surroga e quindi sostituire il mutuo con un'altra banca, o nel caso dovesse sostituire il tasso dal fisso al variabile. E tra poco, con anche con Pietro Danzi, direttore generale di Barclays Retail Italia, vogliamo entrare invece nel merito di quello che potrebbe essere un capitolo positivo, cioè conti di deposito bancari che in qualche caso hanno delle indicizzazioni, in qualche caso no, ma insomma si portano dietro, con l'aumento dei tassi di interesse, un aumento della redditività. Prima della pausa però lanciamo un appuntamento che ci riguarda da vicino, noi di Salvadanaio, di Radio 24, perché si terrà a Milano il 6, 7, 8 aprile la nuova edizione del Salone del Risparmio, il più importante evento italiano dedicato al settore, organizzato e promosso da Assogestioni. In vista di questo appuntamento, Salvadanaio, in collaborazione con il Salone del Risparmio, ha istituito un servizio di segreteria telefonica 800 28 12 12 dove potrete lasciare le vostre domande, in particolare ciò che volete chiedere al vostro consulente proprio in tema di risparmio gestito. Vi invito dunque a contattare la nostra segreteria, risponderemo a tutti i vostri quesiti a partire dal lunedì prossimo in diretta con l'ausilio dei nostri esperti, ripeto 800 28 12 12, da non confondere col numero verde da fare invece oggi, lo ripeto a questo punto già che ci siamo, 800 24 00 24 per parlare delle scelte di risparmio che si aprono con un possibile aumento dei tassi di interesse che avverrà verosimilmente ad aprile. Facciamo una breve pausa, rientriamo tra un attimo. 12 e 34 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Prima di tutto una piccola rettifica, o meglio, anzi, un piccolo approfondimento che ce lo chiede un ascoltatore al 349-238-6666. Dato che stiamo parlando di scelte piccole e grandi di risparmiatori e famiglie di fronte ad un possibile aumento dei tassi di interesse a livello europeo a partire dal 7 aprile, parlavamo dei riflessi sui mutui e avevamo fatto una stima qui col nostro ospite Gaetano Maria Alai. Però abbiamo parlato di un mutuo di 150.000 euro, però forse non abbiamo detto sì. Il periodo del mutuo. Allora, esattamente, un mutuo trentennale con uno spread dell'1,50, tasso variabile, questa è la media bene o male di quello che il mercato oggi ci propone, e il mutuo aveva una durata di 30 anni. Benissimo, e adesso invece, come anticipato poco prima della pausa, con Pietro Danzi, direttore generale di Barclays Retail Italia, su quanto accade ai conti di deposito bancari, in un settore, come sappiamo, che è abbastanza in crescita in questo periodo e insomma ci sono conti indicizzati, conti che hanno dei riflessi più o meno indiretti. Cosa vi aspettate per quanto riguarda il vostro settore di fronte a un possibile aumento, come stiamo parlando questa mattina, dei tassi di interesse, Danzi? Sì, ecco, allora, innanzitutto grazie. Io dicevo che innanzitutto il tassi di interesse sono già saliti, quindi non stiamo parlando soltanto di una prospettiva attesa, ma stiamo parlando di una cosa che sta avvenendo e sta avvenendo ormai da qualche mese. Io sono andato a rivedere i tassi di fine agosto, sia i tassi a un mese che i tassi ventennali, e allora, tanto per dare un esempio ai nostri ascoltatori, ad agosto l'Euribor a un mese era 0,65, a fine febbraio era 0,90, con un aumento di 25 punti base, e l'IRS, cioè il tasso a 20 anni, è passato addirittura da 2,70 di fine agosto al 3,90 di questi giorni, quindi un aumento veramente pesante. L'altra cosa che volevo dire, prima di poi rispondere con precisione alla sua domanda, è che purtroppo anche tutti questi calcoli che vengono fatti sull'effetto mutuo ipotizzano un aumento di 25 punti base, che è l'aumento atteso, spalmato su tutta la durata del mutuo. Il problema è che non necessariamente il mutuo a 30 anni o a 20 anni o a 30 anni crescerà dello stesso ammontare di 25 punti base, potrebbe crescere molto di più. E se noi vediamo i mutui da agosto ad oggi, la rata è purtroppo aumentata di 100 euro al mese, quindi alcuni nostri clienti e consumatori stanno pagando un mutuo che è aumentato, ovviamente al tasso fisso trentennale, di anche 1000 euro al mese, che diventa veramente importante su una durata, dicevo, trentennale, e un ammontare di circa 150.000 euro. Quindi il problema problema è non calcolare soltanto i 25 punti base pensando che tutta la struttura dei tassi si alzi di 25 punti base, ma come si muove la curva dei tassi dipende, può portare sorprese purtroppo negative per i nostri ascoltatori. Parliamo invece dei conti correnti, anche qui dobbiamo fare una distinzione, ci sono dei conti correnti che sono conti correnti transazionali e quindi servono necessariamente per supportare il sistema delle spese delle famiglie. Questi conti correnti generalmente offrono rendimenti molto bassi e sono legati all'Euribor, quindi in questo caso normalmente aumentando l'Euribor aumenterà la remunerazione, ripeto, generalmente che però è molto bassa, quindi diciamo quasi inavvertibile, bassa, sì. Esattamente. E invece l'altro capitolo? L'altro capitolo è quello dei conti correnti che hanno una remunerazione molto alta, che può essere 2,5 o 3 volte il tasso di Euribor attuale, quindi molti conti intorno al 2,5-3%, che sono talmente tanto sopra l'Euribor che, mi lasci dire, non sono indicizzati e non saranno sensibili a variazioni di 10, 15, 20 punti base. Ovviamente se la variazione dovesse essere ben più alta, chiaramente anche in questo caso ci potrebbe essere necessità di rinegoziare con la banca. Quindi su questo tipo di conti, che non hanno soltanto una funzione transazionale ma hanno veramente una funzione di investimento dalla parte di clientela, c'è già una in qualche modo, se vuole, tener conto di un possibile aumento. E comunque il rischio per il consumatore, per il cliente, è molto basso, perché possono essere comunque rinegoziati, perché alcuni di questi sono a vista, altri comunque scadono dopo un anno e quindi il rischio è veramente molto limitato di poter perdere delle opportunità. Ecco, lei introduceva questa differenza tra conti più o meno vincolati nel tempo, si sa che a volte questo è un problema, e su questo fronte ci sono delle novità, voglio dire, per il risparmiatore è possibile avere il beneficio di queste remunerazioni che sono, insomma, allettanti per chi magari ha delle piccole cifre, però senza doverle immobilizzare. Guardi, noi siamo usciti proprio con un conto che ha un rendimento estremamente elevato, perché diamo un 3% lordo, quindi il rendimento più alto sul mercato, senza di fatto nessuna condizione accessoria e a costi zero, e questo è a tutti gli effetti per noi un conto corrente, quindi è un conto a vista, quindi il cliente può decidere di tenere i soldi sul conto per il tempo che ritiene opportuno, toglierli e gli viene remunerato questo 3%. Per di più, per dare stabilità di questo, abbiamo dato al cliente la possibilità, con passi facilissimi, tipo appunto addebitare delle utenze, di estendere il periodo del 3% da oggi fino al 2013, quindi fino al 2013. Lo vediamo proprio come un prodotto che è assolutamente libero, a costo zero, molto flessibile, il cliente può entrare e uscire in qualunque momento e può avere la possibilità di un tasso molto importante, perché ad oggi vale circa 3 volte il tasso di riferimento, cioè anzi più di 3 volte l'Euribor a un mese, e può tenere questo vantaggio fino al 2013. Altri prodotti hanno invece una struttura vincolata, quindi normalmente sono vincolati ad un anno o in alcuni casi a 18 mesi, o hanno delle forme di cross-sell importante su prodotti assicurativi o prodotti di investimento. Quindi nella scelta del conto corrente, io dico sempre un po' scherzosamente, invito gli ascoltatori a essere da un lato infedeli e quindi andare a scegliere le opportunità che ci sono veramente sul mercato, e soprattutto capire se è un conto corrente vero o richiede un investimento e quindi un lasciare la liquidità per un periodo di tempo più lungo, 12 o 18 mesi, e soprattutto se non ci sono poi delle condizioni collaterali di investire in prodotti o assicurativi o fondi o quant'altro. Certo, e quindi vediamo, insomma, in qualche modo come anche la crisi del credito e tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, qualche cosa di positivo l'ha portato, mercati più trasparenti, un po' più di concorrenza, e queste sono cose positive, quindi anche possibilità per i consumatori, per i risparmiatori. Jacopo Ceccatelli, mi scusi, oggi sbaglio sempre il suo nome, amministratore delegato di JC Associati. Veniamo un po' a quelli che sono invece i mercati dell'azionario, magari parleremo tra un po'. C'era un sondaggio dell'agenzia di stampa Radio Coro Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa che parlava di prospettive comunque che restano positive. Per quanto riguarda invece i mercati obbligazionari, aumenti di un quarto di punto dei tassi di interesse, so che sono ragionamenti sempre complicati da fare, ma che cosa si può cominciare a dire? Ma allora, innanzitutto per i mercati obbligazionari non è importante tanto l'aumento in sé, ma il messaggio che la Banca Centrale Europea sta dando, diciamo, a partire dalla settimana scorsa. che è quello che abbiamo cambiato fase. C'è stata una lunga fase nella quale la crescita bassa era il problema più importante, la disoccupazione elevata e il basso utilizzo della capacità industriale, della capacità produttiva erano le maggiori preoccupazioni. Da settimana scorsa sappiamo che la BCE ha cambiato atteggiamento, adesso la cosa più preoccupante per loro è l'inflazione. Questo significa ovviamente che chiaramente ci sarà quasi sicuramente appunto questo aumento dei tassi di riferimento, che però potrebbe non essere l'unico, soprattutto se la ripresa continuerà. Quindi chiaramente i rendimenti dei titoli a reddito fisso tenderanno ad aumentare e i loro prezzi tenderanno a diminuire. Questo è il primo ovvio effetto. Il secondo effetto è un effetto sul mercato valutario. Sicuramente l'euro con questo nuovo atteggiamento della BCE beneficerà di tassi più elevati, appunto ne parlavamo adesso anche sui depositi, ma in generale su tutti gli strumenti di tipo a reddito, quindi depositi, certificati, obbligazioni. Per contro negli Stati Uniti l'atteggiamento è molto diverso e questo rischia di, lo abbiamo già visto in questi giorni, di mutare un po' i rapporti di forza a favore dell'euro, che chiaramente penalizza qualsiasi investimento in valuta se un investitore è basato in euro. Quindi questi sono, credo, i due effetti immediati più evidenti, più logici. E allora, già che ci siamo, vogliamo spendere qualche parola anche per quanto riguarda il mercato azionario, quindi diciamo in generale si possono fare una serie di valutazioni sullo stato di salute delle borse, però poi naturalmente si può parlare anche dei settori che possono essere colpiti o avvantaggiati dalla situazione congiunturale nella quale ci troviamo, che lo ricordiamo origina tutta da una pressione nuova inflazionistica che parte dal caro petrolio, caro carburanti, caro un po' tutto, mi verrebbe da dire. E quindi diciamo sul mercato azionario si possono fare dei ragionamenti, Ceccatelli. Sul mercato azionario, allora innanzitutto da un punto di vista diciamo così storico, chiaramente un aumento dei tassi non è in linea teorica una bella notizia, perché aumenta il costo di finanziamento per le aziende. Però se andiamo a guardare la storia più o meno recente, il mercato azionario vede i primi rialzi dei tassi normalmente, se non con favore, comunque non li vede con sfavore, quindi normalmente in una prima fase di rialzo dei tassi comunque resta associata a una tendenza positiva dei mercati. Mi sembra che le reazioni di queste settimane, di questi giorni, lo possano confermare. Ecco, ovviamente abbiamo in questi giorni un elemento, chiamiamolo di disturbo per i mercati, che è la situazione nel Nord Africa, che non permette di valutare bene quale sia stata effettivamente la reazione legata a questo nuovo atteggiamento della BCE. Però in ogni caso i mercati azionari mi sembrano continuino ad essere impostati bene, c'è un flusso di investimenti costante sui fondi azionari sia in Europa che negli Stati Uniti, questa è una novità dall'ultimo trimestre del 2010 e questo chiaramente finché continua supporta i mercati. Quindi da questo punto di vista direi che in questa fase la mossa della BCE non dovrebbe alterare i mercati. È chiaro che c'è un grosso, a mio avviso, punto interrogativo, che è la soluzione delle problematiche legate ai paesi periferici dell'area euro, soluzione che vedremo, si presume a marzo che veste assumerà, ma che comunque in questo momento resta un po' così nel limbo, e direi che c'è questo grosso punto interrogativo che dobbiamo affrontare per fine mese. Benissimo, vi invito, cari ascoltatori, a chiamare all'800 24 00 24. Tra poco, dopo il traffico, sentiremo la prima chiamata, appunto al numero verde, ci chiamano dalla provincia di Milano. Sentiamo tra poco. 12.47, allora eccoci qua, rientriamo come detto con la prima chiamata di quest'oggi all'800 24 00 24. Paola, Emilia dalla provincia di Milano, buongiorno, la sua domanda, prego. Allora, buongiorno e grazie naturalmente. Senta, io ho fatto 3 anni fa circa un blog, praticamente un investimento in titoli di Stato. a parte il fatto, dunque, il reddito, diciamo, lordo è il 3,75 e 3,20 è quello che prendo effettivamente, no? Nella CEDO. No, a parte il fatto di questo grosso debito pubblico che preoccupa un po' tutti, diciamo, no? È vero. Però ecco, l'altro giorno sono andata e ho visto che per quel mezzo punto che momentaneamente è, io ci ho già perso un paio di milioncini, insomma, in poche parole. Naturalmente, se io non tocco milioni di lire, parliamo di milioni, niente, no? Sì, mi scusi, ma parliamo, penso che quello sarà il consiglio che voi mi date. Sì. Ma ecco, se io li volessi togliere, dove posso avere più o meno un interesse quasi uguale? Ecco, prima di tutto credo una precisazione: lei 2 milioni credo che parlasse rispetto alle vecchie lire, quindi migliaia di euro, penso che sia questo, altrimenti non credo che chiamerebbe noi per avere una consulenza su cifre di questo genere. Comunque, grazie alla signora Paola Emilia. A questo punto girerei la domanda, non so, a Ceccatelli, non so se ha capito il quesito: 3,75 di reddito lordo, 3,20 netto. La signora ha visto, come lei diceva già poco fa, gli effetti di questi aumenti in queste settimane, e si fa delle domande. Ma sì, allora innanzitutto probabilmente il grosso della, diciamo, della perdita è stato accumulato tra i mesi di ottobre e dicembre, quando comunque il mercato già cominciava a prevedere un aumento, un mutato atteggiamento della BCE. C'è stata un'accelerazione anche negli ultimi giorni. In più ovviamente c'è il discorso, come giustamente segnalava la signora, della preoccupazione sul debito, che ha fatto a sua volta diminuire i prezzi dei titoli di Stato. Immagino che si trattasse di un titolo di Stato italiano, quindi di un BTP. È evidente che in questo momento gli investitori devono fare una scelta tra avere rendimenti tra il 3 e il 4,5% su titoli a tasso fisso a medio-lunga scadenza, oppure passare a titoli a tasso variabile, che in questo momento offrono cedole attorno al 2-2,5%, dipende ovviamente dagli emittenti, però ecco, diciamo che andiamo dall'1,5 al 2,5% in termini di cedola, che però garantiscono una stabilità di prezzo. Inoltre, se ci sarà l'aumento di tassi di interesse da parte della BCE, non sarà un aumento una tantum, ma sarà un aumento, per intendersi, come quello che si ebbe tra settembre 2005 e fine 2007, quindi dove si arrivò al 4,25%, se ci sarà quell'aumento, le cedole aumenteranno nei titoli a tasso variabile. E quindi diciamo che è una scelta che gli investitori devono fare tra un rendimento certo più alto, con i titoli a tasso fisso ma con oscillazioni di prezzo che possono essere anche importanti, e un rendimento attualmente più basso, che non è detto che resti così basso, con però il vantaggio di avere una stabilità di prezzo. Direi che noi ovviamente siamo sempre, sì, per scelte mediate, quindi chiaramente in un'ottica di portafoglio consigliamo di avere entrambe. Mediate e meditate, mi raccomando, sempre. Esatto. Massimo, che ci chiama da Torino invece, buongiorno, benvenuto, alla sua domanda. Buongiorno, allora la mia domanda è questa: io qualche anno fa avevo aperto la mia attività e avevo avuto accesso a un mutuo l'apertura dell'attività, e l'avevo fatto con un tasso fisso al 6,6%. Adesso ho bisogno di liquidità per aumentare un pochettino l'azienda e ho ricontrattato, diciamo, sto ricontrattando il mutuo, e ho chiesto un mutuo di 70.000 euro e mi hanno consigliato il tasso variabile. Adesso voglio capire effettivamente cosa convenga fare, cioè se mantenere un tasso fisso oppure accedere a un mutuo a tasso variabile, che attualmente me lo danno intorno a poco meno del 4%. Lei è fortunato, perché abbiamo qua Gaetano Maria Laimo e ci risponde subito. Tra l'altro bisogna vedere anche chi gliel'ha consigliato, perché poi insomma a volte chi consiglia, non sempre, voglio dire, no, è in grado di dare il consiglio adatto alla persona, soprattutto nell'interesse della persona. Bene, Laimo. Chiederei al radioascoltatore se il mutuo è fatto come persona fisica o come persona giuridica. Sei ancora in ascolto? Sei ancora in ascolto. Massimo, ha sentito? No, non ho capito, scusi. Il mutuo è stato fatto come persona fisica o come persona giuridica? Una ditta individuale. particolare, quindi una persona fisica, quindi come sì, se esatto. fosse un libero professionista. Ascolti, come consulente le consiglio il tasso variabile con opzione al fisso. Oggi le banche hanno una serie di prodotti molto interessanti che vanno dal tasso variabile con opzione al fisso oppure a un tasso con canoni costanti e rata protetta. Questi sono vari prodotti che oggi il mercato finanziario e le banche riescono ad offrire e sicuramente un consulente finanziario le può dare questo tipo di consulenza. Inoltre il tasso fisso al 6,60 lo può tranquillamente trattare con un tasso fisso. Oggi il tasso fisso medio è intorno al 5,50. Alaimo, siamo quasi in chiusura, non abbiamo toccato un tasto un po' marginale, però insomma può essere sempre interessante in questo momento, quello del credito al consumo. Scenari di aumento del tasso di interesse possono portare variazioni a chi deve stipulare un prestito, naturalmente sì, ma anche a chi l'ha già stipulato? Beh, a chi l'ha già stipulato no, perché il TAN comunque ha canoni costanti e quindi non va a toccare quello che ha fatto precedentemente un prestito personale o un prestito finalizzato. Sicuramente già le banche si sono mosse per l'aumento del TAN al cliente, soprattutto nel prestito personale, ma c'è anche da aggiungere che le risposte da parte della banca sui prestiti personali in termini di percentuali si sono notevolmente ridotte. Riuscivamo agli inizi del 2010 ad avere una risposta di positività sul contratto di 4 clienti su 10, già a inizio del 2011 siamo a 3 clienti su 10 quindi sta che calando. Hanno accesso al credito. Ebbene, ebbene, siamo quasi in chiusura anche oggi, dobbiamo fermarci qualche istante prima per lasciare però spazio alla nostra rubrica. INPS, per saperne di più. Continuiamo infatti a proporvi in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle pillole per chiarire e spiegare le parole della previdenza. Il concetto di oggi è riscossione della pensione. È possibile in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata, attraverso appositi moduli, direttamente allo sportello dove si riscuote la pensione, oppure alla sede INPS più vicina. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda. Se lo si desidera, si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. La delega può essere richiesta all'INPS al momento della domanda di pensione, oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'INPS, che riceve la domanda, o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'INPS rilascia una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e d'ufficio comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le rate successive. Scelte grandi e piccole dei risparmiatori e delle famiglie di fronte a un possibile rialzo del costo del denaro in Europa il 7 aprile. Questo è il tema della puntata di oggi. Io ringrazio Gaetano Maria Alaimo, amministratore delegato di Pragme Financial Advisory Group. Ringrazio Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati, e anche Pietro Danzi, direttore generale di Barclays Retail Italia, per essere stati con noi. Adesso c'è il giornale radio. Come sempre, Salva Danaio torna domani a mezzogiorno e quindi. Buona giornata.